questa è una specie di industria. Ci sono dei giocatori che, ahimè, si prestano a intervenire cercando di pilotare la partita verso un certo risultato. L'industria del calcio è quella delle scommesse. A Storiacce tutto quello che non avreste mai voluto sentire sullo sport nazionale e sulle vostre squadre del cuore. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto sabato alle 13.15 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.